Vedi quella macchia sul tavolo? È il legno che la trattiene. Scendevamo in paese d'estate, quasi tutte le sere. Sei contenta di noi, della fiamma che sai trasportare, della luce che ancora diffondi nei cunicoli dei miei pensieri profondi. Puoi lasciarti cambiare. Da chi vuole lasciarsi cambiare da te? Farti ferire da chi vuole lasciarsi ferire. Non dire niente detto tra noi.